Satispay è l'app che ha già rivoluzionato le modalità di pagamento di 500.000 di italiani. Con Satispay puoi pagare nei negozi, scambiare denaro tra amici, pagare ricariche e bollettini, fare donazioni e risparmiare in modo smart. Scarica gratuitamente l'app Satispay per Android e iOS. Vivi smart. Usa Satispay. Sono personaggi la cui fama, il cui spessore sono talmente grandi che vanno al di là di qualsiasi cosa, anche al di là del loro schieramento storico o, se volete, politico. Insomma, ci sono personaggi che hanno fatto cose che attengono alla sfera universale del rispetto umano, personaggi che hanno vissuto vite di grande valore al di sopra di tutto. Ecco, queste figure noi riteniamo sia bello raccontarle e sia inevitabile e giusto riconoscere a loro il dovuto merito, cioè il ricordo che si attribuisce ai grandi. Ecco, questo è sicuramente il caso del nostro protagonista di oggi. Naturalmente il terreno è spinoso, perché quest'uomo all'inizio viene spinto da degli ideali che ormai sono stati condannati, in realtà sono stati superati, non esistono più, anche se qualcuno strumentalmente vuole far finta che esistano. Insomma, è stato battuto e superato dall'evoluzione umana e dalla storia. Però ai tempi questi ideali hanno spinto il nostro protagonista a compiere azioni eroiche per le quali alla storia c'è passato, perché ha avuto un valore. La sua è stata una figura di condottiero carismatico, e su questo non ci sono dubbi. Ecco, questo è l'approccio che noi tutti assieme in questo momento dobbiamo avere: raccontare imprese eroiche che lo hanno consegnato alla storia recente, con lo stupore e la serenità che sono necessarie in questo momento. Il protagonista di oggi è il feldmaresciallo Erwin Rommel, il più famoso, il più controverso comandante militare della Seconda Guerra Mondiale. Era inizialmente il generale prediletto di Adolf Hitler, era il capo degli Afrika Korps, era un eroe di guerra, era idolatrato dai suoi soldati ed era rispettato dai suoi nemici. È stato artefice di alcune delle battaglie determinanti della storia del Secondo Conflitto Mondiale, come la presa di Tobruk, ma anche di drammatiche disfatte come quella tremenda di El Alamein. E racconteremo come lui si sia distinto per il suo coraggio, per la sua abilità tattica, per la sua astuzia che gli è valsa il famosissimo soprannome di Volpe del Deserto, e anche come sia stato sempre fedele alla sua patria, alla Germania, mentre non è sempre stato fedele a Hitler. Vedremo come e perché il suo più che giustificato scetticismo. Insomma, stiamo per inoltrarci in una leggenda che ha fatto parlare e discutere il mondo intero. I misteri di questa leggenda ci sono ancora, probabilmente resteranno per sempre. Trotzdem wir dem Engländer an Zahl weit unterlegen waren, griffen wir bei Michili. Quella che avete sentito è la voce originale di Erwin Rommel, è un passaggio di un suo discorso del 43. Lui raccontava in questo passaggio la tattica usata al suo arrivo in Libia con gli Afrika Korps nel 41. Lui stava spiegando che, essendo numericamente inferiori all'esercito britannico, lui aveva agito d'astuzia, cioè, pensate, il genio, si era inventato una specie di inganno visivo, perché lui faceva muovere i famosi panzer, i carri armati tedeschi, a zigzag, e questo provocava molta più sabbia del dovuto, produceva una grande quantità di polvere, insomma, da lontano dava l'impressione che i carri armati fossero il doppio, il triplo di quelli che erano in realtà. Solo a uno così poteva venire in mente un'idea del genere. La Royal Air Force aveva così immediatamente riportato la notizia di forze corazzate tedesche ingentissime che si dirigevano verso il fronte. Insomma, questo è il classico caso di quello che renderà famoso Rommel, cioè le sue astuzie, da cui il soprannome Volpe del Deserto, i suoi bluff che erano poco in linea con la prassi militare tradizionale e che erano stati criticati da colleghi diciamo meno fantasiosi di lui. In più di un'occasione questi bluff si sono rivelati determinati per la riuscita di un'azione militare o per l'esito di una battaglia. Erwin Johannes Eugen Rommel nasce il 15 novembre 1891 a Heidenheim, nello stato del Württemberg, nel sud della Germania. La sua è una famiglia benestante, la madre è la figlia del presidente del governo locale, il padre è un professore di matematica, stiamo parlando di gente comunque normale della media borghesia. Questo è un elemento che differenzia di molto Rommel dagli altri graduati dell'esercito con i quali lui dovrà interagire, e lo vedremo, perché la maggioranza degli ufficiali dell'esercito prussiano, quindi poi tedesco dell'epoca, provenivano dalla nobiltà, erano diciamo dei VIP aristocratici, un po' una riccanza annoiata che andava a fare la guerra, e lui invece farà tutta la gavetta. Questo lo porterà ad avere un atteggiamento molto diverso con i suoi subordinati più vicini a lui, e quindi questo lo porterà a sapere interagire col suo esercito in maniera completamente particolare. Erwin è un bambino felice, ha un'infanzia serena, da ragazzino vuole fare l'ingegnere aeronautico, vuole progettare gli aerei, a 14 anni costruisce un aliante che è già in grado di volare e nel 1910 entra nell'esercito come cadetto ufficiale nel 124esimo reggimento di fanteria. A 21 anni è già tenente. Nel 1911 conosce Maria Lucia Mollin, 17 anni, polacca di Danzica ma di origine venete, Mollin, e la donna diventerà sua moglie nel 1916. Avranno un unico figlio, Manfred, che nasce nel 28. Pensate, Manfred Rommel sarà sindaco di Stoccarda per 3 mandati, ancora oggi è considerato il sindaco più amato nella storia della città. Ascoltate cosa scrive proprio lui, Manfred, nella prefazione del libro Fanteria all'attacco, che sono i diari di guerra del padre Erwin Rommel, diari che lui ha scritto durante il primo conflitto mondiale e che ha pubblicato nel 1937. Mio padre scrisse Fanteria all'attacco nella prima metà degli anni 30, intendendo realizzare un libro di testo militare dove aveva riversato tutte le sue esperienze come ufficiale di fanteria durante la prima guerra mondiale. Chiunque lo legga noterà che la mia esistenza è stata ripetutamente e seriamente in pericolo, in quanto mio padre sopravvisse nelle battaglie a cui prese parte solo ed esclusivamente per una fortuna sfacciata. Se non fosse stato per lei, io non sarei mai nato. Tra l'altro, mio padre ebbe a dire che per diventare eroi bisogna prima di tutto sopravvivere. Nella mia prima infanzia, quando iniziai ad avere coscienza del mondo che mi circondava, capii che mio padre era un eroe. Tutti lo dicevano, nessuno ne dubitava. Non era possibile avere dubbi. Aveva ricevuto la più alta e rara onorificenza militare prussiana, l'ordine Pour le Mérite, che all'epoca veniva considerata alla stregua di un premio Nobel. Quando i miei genitori uscivano, io tiravo fuori la medaglia dal cassetto dove la custodiva mio padre, me la puntavo al petto e mi guardavo nello specchio, tutto orgoglioso. Quella di cui sta parlando Manfred Rommel, sta parlando dell'ordine Pour le Mérite, è la più alta onorificenza militare del Regno di Prussia e dell'Impero tedesco. È stata istituita da Federico il Grande nel 1740, e peraltro questo spiega il francesismo, il francese, perché in quell'epoca la lingua ufficiale delle corti regnanti era il francese, e così la dicitura è appunto in francese. Il tenente Erwin Rommel si guadagna questo riconoscimento così prestigioso nel 17, a soli 26 anni, è il più giovane militare tedesco ad averlo mai ricevuto. Dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale lui si era trovato impegnato sul fronte occidentale e si era distinto per diverse azioni coraggiose, era stato ferito più volte, aveva combattuto nei dintorni di Varennes, nelle Argonne e poi sul fronte rumeno e poi su quello italiano, dove era arrivato nel corpo d'élite dell'Alpenkorps. E poi c'è Caporetto. Caporetto per noi italiani è considerata la sconfitta per eccellenza, ne abbiamo parlato in una nostra puntata, a Caporetto, Rommel, che ovviamente si trova dalla parte opposta, dal meglio di sé guida il reparto di punta del battaglione da montagna del Württemberg, raggiunge una serie di successi brillantissimi, impiega abili tattiche di infiltrazione lungo le montagne, fa prigionieri molti soldati italiani, si distingue soprattutto nella battaglia di Longarone. Saranno proprio i suoi uomini che sbaraglieranno le nostre coraggiose brigate Arno e Salerno e i nostri nemici di allora conquisteranno il monte Matajur il 26 ottobre 1917. Al termine della campagna, il reparto di Rommel ha al suo attivo 9.000 prigionieri, un bottino impressionante, e saranno questi i successi che gli varranno quell'onorificenza di cui abbiamo parlato prima, l'ordine Pour le Mérite. Al termine della prima guerra mondiale, Erwin Rommel ha 27 anni, ha abbandonato ovviamente le sue velleità di diventare progettista di aerei, ormai un militare in tutto e per tutto, rimane nell'esercito per occuparsi dell'addestramento dei giovani soldati, è comandante di reggimento, poi istruttore alla scuola di fanteria di Dresda e poi all'Accademia di guerra di Potsdam, e i suoi diari che sono stati raccolti in un libro Fanteria all'attacco, i suoi diari diventeranno uno dei principali libri di testo sui quali studiano gli allievi. E andiamo al 1938, il colonnello Rommel, sì, perché nel frattempo lui è diventato colonnello, viene nominato comandante dell'Accademia di guerra di Weiner Neustadt. Pochi mesi dopo però accadrà qualcosa che cambierà per sempre la sua vita, perché viene posto al comando del battaglione di protezione personale del Führer, cioè di Adolf Hitler. Ma perché Hitler sceglie proprio lui? Cioè, è un ufficiale valoroso, ha meritato onorificenze, però Hitler avrebbe dei personaggi più vicini a lui. Perché Hitler vuole proprio Rommel? Probabilmente la ragione risiede nelle origini non nobili di Rommel. Lui non è un personaggio di spicco della società berlinese, non è un militare prussiano, un nobile. Lui è uno che si è fatto la gavetta, uno che arriva dal basso, uno che è disprezzato dalle accademie, dai colleghi provenienti dalle accademie aristocratiche, e lui non fa niente per ringraziarseli, anzi tratta tutti male al limite della maleducazione, ma dimostra predilezione per i suoi subordinati, per i suoi uomini che lo adorano. E in realtà, per capire se una persona è un grande o no, bisogna vedere come si comporta coi subordinati, non con quelli che stanno sopra. E tutto questo piace molto a Hitler, dimostra interesse il Führer per un ufficiale, magari insubordinato, però sincero, fedele alla patria e anche, come dire, come immagine più presentabile, cioè uno che arriva dal basso e non è un nobile. Insomma, lo sceglie per comandare quella che praticamente è la sua scorta armata. Nel frattempo lo nomina generale. Rommel è entusiasta di Hitler, scrive così a sua moglie Lucia: Dio lo ha incaricato di innalzare il popolo tedesco fino al sole. Sprigiona una forza magnetica, ipnotica. La sera si passa sempre molto tempo a fare il punto della situazione. Mi è concesso di assistere e di quando in quando posso anche dire qualche parola. È incredibile la forza che emana il Führer. Spesso ho la possibilità di conversare con lui e questa fiducia è la gioia più grande per me, anche più del grado di generale. Il Führer è sempre di buon umore. Ogni giorno sediamo due volte alla sua tavola. Ieri ho pranzato proprio accanto a lui. E arriviamo al primo settembre 1939 con la famosa Blitzkrieg, che è la guerra lampo, l'invasione della Polonia, opera della Germania nazista. Di fatto è l'inizio della seconda guerra mondiale, un'invasione cruenta. Prima ci fu l'Anschluss, l'annessione dell'Austria, che fu più diciamo propagandistica. Qua invece la guerra diventa inevitabile. Due giorni dopo l'invasione della Polonia, Gran Bretagna e Francia dichiarano guerra alla Germania. Hitler deve dislocare i suoi generali e tra questi c'è anche lui, Erwin Rommel. Gli chiede se ha qualche desiderio particolare Rommel gli risponde che gli piacerebbe molto comandare una divisione corazzata. Hitler esaudisce la sua richiesta, gli affida il comando della 7ª Panzer Division, la divisione dotata dei formidabili carri armati Panzer, l'arma che farà di Rommel una leggenda. I Panzer di Rommel infatti vengono impiegati immediatamente per il Fall Gelb, che è il caso giallo, il nome in codice assegnato dalla Wehrmacht alla prima fase dell'offensiva generale sul fronte occidentale, cioè l'attuazione della invasione della Francia. La regola militare tradizionale in caso di invasioni prevederebbe un'avanzata compatta di tutte le forze, coordinate diciamo dai confini verso l'interno. Rommel invece spinge la sua unità corazzata da sola direttamente nel cuore della Francia. La sua tattica è mandare avanti i carri armati dentro le linee francesi senza preoccuparsi che vengano seguiti dal resto delle truppe. I suoi panzer verranno ribattezzati la divisione fantasma perché compaiono all'improvviso, come dal nulla, arrivano dove nessuno se l'aspetta, dove non era immaginabile che potessero arrivare. E la 7ª Panzer Division di Rommel si distingue per le imprese epiche in Francia. È la prima divisione tedesca che supera la Mosa presso la diga di Hur, respinge il contrattacco della BEF, la British Expeditionary Force, cioè il coraggioso corpo di spedizione britannico che era giunto in aiuto dell'esercito francese. Bene, i britannici vengono costretti a reimbarcarsi e a tornare sconfitti oltre la Manica. La campagna di Francia è un trionfo per Rommel e per la Germania, gli alleati sono sconfitti e una gran parte del merito va proprio a lui. Merito, insomma, stiamo parlando di guerra, quindi quando dico merito si sappia che si parla di tecnica bellica, la morale sta altrove nelle guerre. La capacità tattica di Rommel è unica, ma soprattutto c'è il suo carisma, c'è il suo rapporto di totale fiducia con i suoi uomini. Ascoltate il ricordo di un soldato, Meinhard Glanz, e di un sottotenente, Heinrich von Einsiedel, due soldati della Wehrmacht che hanno combattuto con lui. Rommel era il generale che stava alla testa dei suoi soldati, li spingeva all'attacco. Per noi giovani era la figura ideale del capo militare, così come veniva illustrata dai manuali. Era senza dubbio un capo carismatico, uno che sapeva entusiasmare i suoi uomini, ma era anche incredibilmente abile dal punto di vista tattico. Il Fall Gelb si sviluppa con grande rapidità, con il totale successo delle forze tedesche. 70 divisioni alleate vengono distrutte. La Wehrmacht dà una dimostrazione di forza impressionante. Pensate che cattura oltre 1.200.000 prigionieri. Il Fall Gelb è una delle più brillanti e riuscite operazioni strategiche di tutta la storia militare. Provoca molta impressione in tutto il mondo, evidenzia la superiorità del Terzo Reich in quella fase della guerra e specialmente delle forze corazzate che sono mobilissime e potenti. Tutto questo diventa un successo anche personale del generale Rommel. Lui si è distinto per la sua abilità. Hitler decide di affidargli un compito molto delicato e difficile. Lo nomina comandante delle truppe in Africa, comandante del famosissimo corpo d'armata che viene inviato nel febbraio del 41 in Libia per aiutare l'alleato Benito Mussolini, il corpo d'armata che passerà alla storia con il nome di Africa Corps. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. E il gabbiano. Il nostro protagonista di oggi è il feldmaresciallo Erwin Rommel, il più famoso e il più controverso comandante militare della Seconda Guerra Mondiale, generale prediletto di Adolf Hitler, almeno fino a questo momento della nostra storia, capo degli Africa Corps, eroe di guerra, idolatrato dai suoi soldati, rispettato dai suoi nemici, artefice di alcune battaglie determinanti nella storia del conflitto, come la presa di Tobruk, come le drammatiche disfatte di El Alamein, la sua figura di soldato gentiluomo, la sua abilità tattica, la sua scaltrezza, il suo coraggio coraggio gli hanno valso molti soprannomi, e il più famoso è quello di Volpe del Deserto. E nel nostro racconto di questa vita avventurosa e straordinaria siamo arrivati al febbraio del 41. Pochi mesi prima, nel settembre del 40, era iniziata l'offensiva italiana in Africa settentrionale, perché Mussolini sognava di costruire un nuovo impero romano. Era stato però contrastato dagli inglesi, che avevano sfondato le linee italiane in Egitto, e allora il duce è costretto a chiedere aiuto ai tedeschi. Hitler gli promette il suo generale più abile, e ovviamente stiamo parlando di lui, di Rommel. Arriva in Libia preceduto dalla sua fama. Viene addirittura composto un inno ad hoc per gli Africa Corps. Siamo l'Africa Corps, dice l'inno, la truppa temeraria del Führer, ci lanciamo all'attacco come demoni, mandiamo di traverso la minestra a Tommy, suona ancora quel tamburo, si va all'attacco col nostro Rommel. Cioè la canzone cita proprio lui, cita Rommel. In realtà Rommel non comanda solo i tedeschi, comanda anche i soldati italiani. Ascoltiamo lo storico Giorgio Rorschach. Rommel in realtà comandò in Africa settentrionale sempre delle truppe italo-tedesche. Nei resoconti successivi i tedeschi hanno sempre la tendenza a dimenticare gli italiani, salvo poi dare loro la colpa delle sconfitte. In realtà Rommel ebbe sempre ai suoi ordini più soldati italiani che non tedeschi. I tedeschi avevano mezzi migliori, carri armati, aerei, e quindi un ruolo più importante, ma gli italiani, che avevano un equipaggiamento mediocre, non infame, mediocre, combattevano sempre piuttosto bene accanto a Rommel e accanto alle sue truppe. Quindi tutte le vittorie e le sconfitte di Rommel in Africa settentrionale sono sempre vittorie e sconfitte italo-tedesche. Rommel diede anche dei giudizi diversi sui soldati italiani. Una volta disse che erano più bravi come lavoratori che come soldati, in altre occasioni ne disse anche molto bene. Ci sono giudizi altalenanti, certo che Rommel era molto amato e stimato dai soldati italiani. Il deserto è il territorio ideale per la guerra che più si addice a Rommel, la sua specialità, la guerra di movimento. È lì che si è guadagnato questo soprannome di cui più volte abbiamo parlato, Der Wüstenfuchs, appunto la volpe del deserto. A due mesi dal suo arrivo in Africa lui è già riuscito a raggiungere la frontiera egiziana e ha obbligato gli inglesi a ritirarsi fuori dalla Libia. Gli inglesi però hanno ancora in mano il porto di Tobruk, il luogo strategico, è una fortezza apparentemente inespugnabile, e Rommel la pone sotto assedio per oltre sei mesi, ma non riesce nel suo intento, perde anche parecchi uomini e lui non sopporta questa situazione. Lui dice sempre che dietro ogni singolo soldato che muore c'è una famiglia che piange, ci sono degli orfani che restano soli, e questo insomma è un modo di pensare che pochi generali, pochi militari hanno avuto nella storia. Lui crede più in una guerra fatta di tattica e di intelligenza piuttosto che nella violenza e nella morte. Gli Africa Corps infatti verranno ricordati da tutti, da alleati e da nemici, verranno ricordati per la loro correttezza, per la cavalleria con la quale trattavano i prigionieri. Comunque Tobruk rimane inespugnata fino al 21 giugno 1942, quando Rommel riesce nella sua impresa più importante in Africa. 5:51. I nostri aviatori si lanciano uno a uno nel fuoco della contraerea nemica. A terra ecco le straordinarie immagini delle colonne di fumo che si levano dalle fortificazioni di Tobruk. Dall'alto arriva un carico di morte e distruzione. Un'imponente nube a forma di fungo si innalza nel cielo. Le bombe hanno centrato il bersaglio. Questo è il radiogiornale tedesco che, con l'enfasi dei tempi, sta celebrando l'impresa di Tobruk. Lo stile è quasi da gara sportiva. C'è un motivo per il quale in patria, in Germania, viene dato così risalto a questa impresa, l'impresa più significativa di Rommel. Sì, perché il motivo ovviamente è propagandistico, perché nel frattempo le truppe tedesche sul fronte russo stanno subendo gravi perdite, le cose stanno andando male, di lì a poco tutto crollerà. Insomma, la propaganda di Hitler cerca di spostare l'attenzione del popolo dalla parte per lui giusta, cioè dove le cose vanno bene, e Rommel viene celebrato come l'eroe del momento, come il prediletto del Führer, che gli conferisce il più alto grado militare tedesco, lo nomina generale feldmaresciallo. E la sua figura, che è già amata di per sé tra le file del suo esercito ma anche dalla gente comune, viene esaltata ulteriormente da quell'uomo scaltro e terribile che era il ministro della propaganda del Terzo Reich, Joseph Goebbels. E Goebbels trasforma Rommel, qualora ce ne fosse bisogno, in un eroe leggendario. Naturalmente sfrutta la sua immagine per i suoi scopi politici. Però va detto che Tobruk è una vittoria che è stata sopravvalutata in quel momento in Germania. Le perdite comunque sono state ingenti e Hitler non può inviare rinforzi in Africa perché è impegnato a contenere il disastro del fronte russo. E gli inglesi nel frattempo si stanno preparando alla controffensiva, vogliono bloccare Rommel che sta puntando a Alessandria d'Egitto, lo attendono nella valle di El Alamein. El Alamein è una piccola stazione ferroviaria a un centinaio di chilometri dal Cairo. Lì viene costruita una linea difensiva con migliaia e migliaia di mine. Ci si prepara con cura perché bisogna contrastare non solo un grande generale, ma soprattutto un mito vero e proprio, un supereroe dei tempi. Churchill deve mettere in campo tutte le sue forze e anche qualcosa in più. Ha anche lui il suo asso nella manica. Si chiama Montgomery, il generale dell'armata britannica, Bernard Law Montgomery. Ascoltate come è stato ricostruito questo frangente drammatico nel film Rommel, la volpe del deserto di Harry Hathaway del 51, dove Rommel viene interpretato da un grande James Mason. Come vanno le cose oggi? È chiaro che hanno più mezzi di noi, troppi più di noi. Se possono mantenere l'attacco, non so come faremo a tirarci fuori di qui. Non certo con le scorte di benzina che abbiamo. La benzina è sufficiente? Poca, no. Non abbastanza. Hai ancora in strada? Né per strada né c'è speranza che arrivi. Chi le ha detto questo? Ho parlato con Roma 3 volte negli ultimi 2 giorni. Non c'erano petroliere in mare né sottocarico destinate qui sino a questa notte. Nuovi carri armati sono arrivati? Neanche uno. Spostate la 21esima e la Riette a nord da questa parte. Muovete la 19esima e la Trento qui avanti. Per agganciarli? Esatto, un'altra cosa. Montgomery impiega sempre prima la sua fanteria. Naturalmente. E poi i carri. Proprio così. E allora offriamogli una sorpresa. Mandiamogli addosso prima i carri e facciamo una breccia nella fanteria. Se ci riesce, siamo addosso ai Tanks prima che se ne accorga, mentre la nostra fanteria entra nella breccia. Bene, fermare. Se non funziona, avremo fatto anche questa esperienza. Andiamo. Rommel è scaltro, è audace, è circondato da quest'aura di mito, però deve trovarsi a contrastare la superiorità schiacciante, la superiorità numerica e di forze corazzate degli inglesi. E la Lamein è lì che attende la volpe del deserto per sferrargli il suo colpo più duro, il colpo risolutivo. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. E il gabbiano. Siamo a El Alamein. Siamo a un centinaio di chilometri dal Cairo. Ci sono 2 eserciti che si fronteggiano. Da una parte ci sono le forze italo-tedesche, guidate da lui, dal nostro protagonista, Erwin Rommel. Dall'altro c'è l'ottava armata britannica, al comando prima del generale Auchinleck e poi del famosissimo Monty, il feldmaresciallo Bernard Law Montgomery, che passerà alla storia come il nemico per eccellenza di Rommel. Noi parliamo di battaglia di El Alamein, in realtà si tratta di 3 diverse offensive. La prima, che si svolge tra l'inizio e la fine del mese di luglio del 42, la seconda, che viene denominata battaglia di Alamaifa, che si scatena tra il 30 agosto e il 5 settembre, e infine arriva la decisiva, la battaglia di El Alamein, 23 ottobre 5 novembre 42. E sono conflitti dei quali si è parlato moltissimo e si è evidenziato soprattutto il comportamento cavalleresco da entrambi i lati. E poi c'è l'eroismo delle divisioni italiane, in particolare le divisioni Trento, Trieste, Ariete, Brescia. Stiamo parlando di soldati che hanno compiuto atti meravigliosamente terribili sotto il comando di Erwin Rommel, però era Davide contro Golia, e lì solo nella Bibbia vince Davide. L'inferiorità numerica era spropositata, e poi mancavano gli approvvigionamenti, mancavano le truppe fresche, il fronte era vastissimo. Insomma, la sconfitta dell'asse italo-tedesco era inevitabile, e Rommel lo capisce quasi subito, capisce che l'Alamein è una battaglia persa, vorrebbe ripiegare con una ritirata tattica che gli permetterebbe di riordinare le sue truppe, di ricompattare l'Africa Corps e magari sferrare un nuovo attacco. Da Berlino però arriva un ordine netto: il Führer gli vieta di fermare l'offensiva, gli scrive testualmente: resistere fino all'ultimo uomo, vittoria o morte. E ascoltate Rolf Mühlinger, il segretario di Erwin Rommel. L'ordine di Hitler di resistere ad oltranza determinò la sconfitta finale. Fu una vera catastrofe per Rommel, e per la prima volta il feldmaresciallo si rese conto che il Führer non mostrava alcuna pietà per i suoi soldati. Eh sì, non c'era pietà per i soldati. Il principio: ogni ragazzo che muore lascia una moglie, lascia dei figli, qui era totalmente disatteso in quei momenti terribili. Rommel in quel frangente dimostra una forza incredibile, disobbedisce all'ordine di Hitler. Il 5 novembre inizia la ritirata delle sue truppe, vuole salvare il salvabile, vuole risparmiare la vita dei suoi uomini, insomma compie quello che probabilmente è il suo grande colpo d'ala, ne ha fatti tanti, ma questo è il più nobile, la sua impresa più dura, più amara. 3.000 chilometri di ritirata fino alla Tunisia, una impresa terribilmente meravigliosa, lo ripeto, e la storia gli riconoscerà a posteriori un coraggio superiore alla presa di Tobruk, perché ci vuole coraggio intanto a disobbedire a Hitler, e soprattutto ci vuole un coraggio non comune per decidere una ritirata piuttosto che un massacro. E non è più quello di prima Rommel, il suo contrasto con Hitler ormai è un conflitto aperto. Il Führer lo richiama in Germania, lo lascia inattivo per diversi mesi, che per uno come Rommel è la punizione peggiore. E naturalmente la sua immagine di eroe di guerra è molto utile alla propaganda, quindi lo si vede in diverse occasioni pubbliche, però le cose sono cambiate profondamente. Lui non crede più in Hitler, è convinto che la guerra sia persa, e in più di un'occasione prova a esortare il Führer a trattare la resa, e Hitler, ormai preda della sua follia, lo farà sempre allontanare. Nonostante questo lui continua a obbedire agli ordini, quando gli ordini hanno un senso, diciamo. Collabora alla realizzazione delle fortificazioni costiere per contrastare lo sbarco alleato in Normandia, si chiama Vallo Atlantico tecnicamente, però sappiamo bene che sarà tutto inutile. Il 6 giugno 1944 sarà il D-Day e gli alleati entreranno prima in Francia e poi fino alla Germania. E proprio in Normandia, il 17 luglio, peraltro, Rommel subirà un attentato mentre è in macchina, la sua autovettura viene mitragliata da un aereo, alcuni dicono uno Spitfire alleato, altri però avanzano un'ipotesi altrettanto credibile, cioè un aereo della Luftwaffe agli ordini di Hitler. E il risultato è che Rommel riporta la frattura del cranio, una ferita allo zigomo, la lesione dell'occhio sinistro. E tre giorni dopo, siamo al 20 luglio 44, c'è un altro evento, si verifica il famoso attentato a Hitler, quello organizzato da alcuni politici e militari della Wehrmacht. Avviene questo attentato nel quartier generale di Rastenburg, nella Prussia orientale, nella cosiddetta Wolfschanze, cioè la tana del lupo. Il nome in codice era Operazione Valchiria. L'attentato aveva lo scopo di uccidere Hitler, di instaurare un nuovo governo, di salvare il salvabile, di instaurare un governo che fosse pronto a negoziare la pace con gli alleati. Insomma, era un attentato ordito per risparmiare delle vite. L'attentato però fallisce, lo sappiamo, Hitler si salva, vengono arrestate 5.000 persone, Rommel non aveva mai fatto mistero del suo contrasto con Hitler e viene immediatamente sospettato. E ascoltiamo ancora lo storico Giorgio Rochat. Il ruolo di Rommel nel complotto contro Hitler è noto, cioè Rommel non partecipò alla congiura di un gruppo di ufficiali per uccidere Hitler il 20 luglio del 44, né fu informato dai congiurati, non li denunciò e diede una disponibilità di massima a collaborare con i rivoltosi in caso di successo. Questo è quello che noi sappiamo e che è abbastanza sicuro. Hitler condanna Rommel senza appello, ma gli concede la morte onorevole che si riserva agli eroi, il suicidio, con una capsula di cianuro. Il 14 ottobre 1944 il feldmaresciallo ingerisce volontariamente il veleno e probabilmente in cambio della salvezza di sua moglie e di suo figlio. E c'è una versione ufficiale, quella che rimarrà la sola conosciuta fino a dopo il termine della guerra, cioè che la morte di Rommel fosse avvenuta a seguito delle ferite riportate durante l'incidente di qualche giorno prima. Insomma, l'epopea della volpe del deserto si conclude così, con una capsula di cianuro di potassio. Il mitico comandante, così rispettato anche da Montgomery e dai suoi avversari, da Patton, da Churchill, un uomo la cui lealtà non è mai venuta meno, un uomo che aveva come motto Krieg ohne Hass, guerra senza odio. Guerra senza odio, importante. Un motto che è riecheggiato durante tutta la sua famosissima carriera e anche dopo questa morte così tragica, così misteriosa. È un uomo che la Germania ha trasformato nel dopoguerra, diciamo, in un tedesco buono e leale, uno che era in grado di riabilitare la propria patria attraverso un'immagine di comandante giusto e brillante in un momento, insomma, che è stato terribile per tutta l'umanità. Bene, lui è stato paragonato a Lawrence d'Arabia, è stato considerato un eroe e soprattutto un grande stratega, un maestro della guerra del deserto, un uomo che ha lasciato dei colpi d'ala, insomma, molto complessi, perché erano anni molto complicati. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare i riflettori, cioè il mio microfono, scrivete al Falco il Gabbiano @radio24.it, scrivete al nostro sito, venite nei miei, nei nostri social, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani. Satispay è l'app che ha già rivoluzionato le modalità di pagamento di 500.000 di italiani. Con Satispay puoi pagare nei negozi, scambiare denaro tra amici, pagare ricariche e bollettini, fare donazioni e risparmiare in modo smart. Scarica gratuitamente l'app Satispay per Android e iOS. Vivi smart. Usa Satispay.